I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. La BCE ha detto ormai più volte che c'è qualcosa che non va nei salari europei, non sono sufficientemente alti per fare in modo che ciò si traduca in una spinta sana all'inflazione, un fatto che potrebbe così dare il via all'allentamento del programma di abbondante emissione di liquidità nel sistema dell'Eurozona, oggi guidato proprio dalla BCE di Mario Draghi. Uno studio di Francoforte diffuso ieri ha dimostrato che la capacità non sfruttata di forza lavoro europea, se si sommano insieme la disoccupazione ufficiale, il lavoro precario e quello sottoutilizzato, diventa il 19%, il doppio del tasso di disoccupazione dell'euroarea, che oggi è al 9,5%. Il messaggio della BCE è chiaro e ha un doppio significato, a tratti opposto se ascoltato con orecchie tedesche o italiane. Ad esempio, la Germania ha il problema di 7 milioni di mini job con cui si guadagnano 450-500 euro al mese, esentasse a un tasso di disoccupazione al 3,9%, però si tratta di una scorciatoia di lavoro a bassa qualità e a salari scarsi che quindi la Germania non può più permettersi. In Italia la disoccupazione è all'11,5% e senza lavoro sono ancora troppi. La priorità resta quindi l'occupazione, quindi le politiche attive per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Certo, anche i salari sono e restano importanti, soprattutto perché deve passare da una nuova forma di contrattazione aziendale della produttività, la nuova via per far aumentare le buste paghe e per creare lavoro di maggiore qualità. Ma prima di avere le priorità della Germania, di strada ancora dobbiamo farne. L'importante è cominciare a camminare davvero. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Secondo le rilevazioni di Bloomberg, i 10 amministratori delegati più pagati delle multinazionali americane hanno guadagnato nel 2016 un totale cumulato di 1,16 miliardi di dollari. Sono più o meno 116 milioni di dollari l'anno a testa, quindi 9,6 milioni al mese di stipendio per ognuno dei 10 capo azienda delle multinazionali. Secondo i dati OCSE, lo stipendio medio di un lavoratore americano è di 58 mila dollari l'anno, pari a 4.800 dollari al mese lordi. In pratica, con lo stipendio di ciascuno dei 10 top manager americani, 116 milioni, si potrebbe pagare lo stipendio annuo di quasi 2.200 lavoratori. Niente male davvero. Ma se già questo disgusta, il confronto con l'Italia è decisamente devastante. 34.000 euro di reddito medio annuo per lavoratore, pari a 2.800 euro al mese. Se teniamo conto che secondo l'Istat i lavoratori occupati in Italia sono circa 23 milioni, con lo stipendio annuo di ognuno dei 10 top manager americani, ricordo sempre 116 milioni, si potrebbero pagare gli stipendi di un anno di oltre 3.200 lavoratori italiani. E con gli 1,16 miliardi di dollari che guadagnano tutti insieme questi 10 manager d'oro, si potrebbe pagare lo stipendio annuo cumulato di 10 lavoratori italiani per i prossimi 3.300 anni. 340.000 euro l'anno per 3.300 anni è infatti 1,12 miliardi di euro. Questi numeri, che ho arrotondato persino per difetto, si commentano da soli. Quando parliamo di disuguaglianza, l'America è lo specchio della realtà. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.